24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 17 minuti e 20 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo lunedì 29 giugno. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria. Ciao Simone, buongiorno. Allora, prima di cominciare con la consueta piccolissima rassegna Tutto il Mondo e il Paese, volevo unirmi a quello che avete detto tu e Pamieli a proposito di Susanna Ceccardi, la candidata della Lega al guinzaglio di Salvini, secondo il suo competitor. Devo dire che insomma si possono nel 2020 trovare degli argomenti politici un po' meno old style di questi. Ci sono tanti uomini italiani che stanno capendo quanto sia importante riconoscere pari dignità alle cittadine di questo paese se vogliamo uscire dalla grande emergenza che stiamo vivendo. Qualcuno fa ancora fatica. Sì. Comunque, e se ti aggiungo, Maria, se mi permetti, no, ti aggiungo questo: si possono usare anche toni diversi, perché tu puoi anche ritenere legittimamente, senza violare in alcun modo, no, senza mancare di rispetto a Susanna Ceccardi, puoi sostenere che secondo te è una sorta di figurina, per così dire, di Salvini. Politicamente lo puoi fare. Esatto, politicamente, maschi, no? Esatto, politicamente lo puoi fare, però quel modo, ragazzi, incredibile proprio. Siamo nel 2020, ecco. Questo è. L'Ottocento è passato. Questo è passato. Senti, e invece che... per vai. Tutto il mondo è paese. Allora, dicevate anche prima che c'è stato un buon successo del presidente del Consiglio francese Edouard Philippe, che è stato riconfermato sindaco di un'importante città come Le Havre. E anche in Francia, indovinate un po' di che si parla? Di rimpasto. Sì, la parola emerge, affiora sul Le Figaro, perché dopo il successo che Edouard Philippe ha avuto, che è più popolare di Macron in Francia secondo i sondaggi, c'è chi si interroga sul fatto che magari Macron cercherà di toglierselo di torno e di spedirlo a fare il sindaco di Le Havre, e chi invece pensa che a questo punto, rafforzato dal successo alle elezioni, Edouard Philippe possa chiedere anche un cambio di colleghi di governo. Comunque, come vedete, la parola rimpasto affiora anche lì. E c'è un'altra parola che ci riporta a Tutto il Mondo e Paese. Noi tra poco avremo la ministra della scuola Azzolina, che ha appena ottenuto un investimento di 1 miliardo per la scuola. Ebbene, il Guardian ci dice che un Boris Johnson in grande difficoltà, da che cosa vuole ripartire? Esattamente dalla stessa cosa, un investimento anche lì di 1 miliardo per le scuole britanniche, che sono in condizioni, secondo molti, disastrose, anche per l'edilizia, e quindi anche la Gran Bretagna affronta il problema dell'edilizia scolastica, un po' come dovremmo fare noi, vedremo se riusciremo a farlo. Tutto il mondo è paese, tutto il mondo è paese. Abbiamo in linea con noi la ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina. Buongiorno ministra, benvenuta, anzi bentornata ai nostri microfoni, eccoci, eccoci. Buongiorno, grazie per l'invito e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Maria, inizi tu, prego. Sì, intanto volevo rilevare che appunto è la prima intervista radiofonica o televisiva che la ministra dell'istruzione dà, quindi siamo contenti qui a 24 Mattino che abbia scelto questi microfoni. Poi parlavo del miliardo, eh? Lei ha annunciato lo stanziamento di questa cifra, che è, come dire, è costata anche un bel braccio di ferro intorno ai soldi. Le chiedo di darci delle risposte precise. Quando arriveranno questi soldi? Dove saranno impiegati? Chi dovrà spenderli? Chi controllerà se e come verranno spesi? Perché lei stessa qui a Radio 24 Mattino la volta scorsa ci ha detto che nelle pieghe del Ministero dell'Istruzione il suo predecessore aveva trovato 800 milioni di euro che gli enti locali non erano riusciti a spendere, se non ricordo male. Allora è importante sapere proprio questo: quando arriveranno, dove saranno impiegati, chi li spenderà e chi controllerà. No, gli 800 milioni sono soldi PON, li ho trovati io. Dove li ha trovati, ministro? Dov'era? Li ho trovati, erano soldi PON. Guardi, quando ho fatto la domanda ad alcuni dirigenti del Ministero dell'Istruzione, ho detto voglio vedere i conti, voglio sapere tutto quello che c'è all'interno di questo ministero non speso. Mi hanno detto che ero il primo ministro a fare questa domanda e che nessun altro ministro prima aveva fatto questa domanda ai dirigenti e ai direttori del Ministero dell'Istruzione. C'erano 800 milioni di euro di PON non spesi e adesso li stiamo spendendo. Quindi quel miliardo che si cercava in realtà c'era già, ma nessuno l'aveva visto. Allora, al di là di questo, come sarà speso il miliardo in più? Ci tengo a dire che per settembre noi abbiamo quindi 2,5 miliardi, perché 1,5 miliardi lo avevamo messo nel decreto rilancio e adesso abbiamo 1 miliardo in più. Allora, sono fondi molto importanti, destinati a per diversi aspetti. Innanzitutto serviranno degli arredi nuovi. Banchi singoli permettono di recuperare spazio e noi al momento, sulla base del documento del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute, dobbiamo mantenere il metro di distanza da bocca a bocca in classe, e non solo in classe chiaramente. Quindi serviranno arredi diversi. Banchi singoli, banchi moderni, che permetteranno però anche una didattica moderna. Ovviamente serviranno spazi nuovi, quindi nuove aule, e pensiamo agli edifici scolastici dismessi. Serviranno per fare passi territoriali, quindi per portare i nostri studenti e le nostre studentesse anche fuori dalla scuola intesa in maniera tradizionale, e devo dire che questo piace molto agli studenti e alle studentesse. E poi ovviamente l'organico, perché se per esempio quel metro di distanza di cui parlavo prima c'è in tutti gli ordini di istruzione, ma non c'è nella scuola dell'infanzia, per ovvie ragioni, parliamo di bambini, lì il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute mette per iscritto che bisogna fare lezione a piccoli gruppi. Quindi piccoli gruppi significa che io ho bisogno di più maestre e di più maestri. Quindi sicuramente parte di questi soldi saranno spesi per l'organico. Chi deve controllare? Allora, noi abbiamo scritto delle linee guida molto flessibili, le abbiamo condivise con tutti sostanzialmente, poi scritte nello specifico con le regioni e con tutti gli enti locali. In base ciascuno, diciamo, alle proprie responsabilità, avvieremo, sono stati anzi già avviati, io personalmente insieme anche al sottosegretario mi recherò regione per regione, a monitorare che nei tavoli regionali si faccia tutto quello che si deve fare. Perché adesso il punto è, far sì che i dirigenti scolastici, grazie anche al cruscotto che abbiamo creato al software, si vede esattamente in ogni singola scuola quanti studenti e studentesse non rientrano nei parametri del metro, da lì gli enti locali ci aiuteranno, perché sono gli enti locali ad essere proprietari degli edifici scolastici, i comuni e le province, a trovare altri locali. Noi mettiamo i soldi e monitoreremo esattamente che venga fatto tutto. Ministra, le prime chiusure delle scuole sono dell'inizio di marzo. La costituzione del gruppo di lavoro task force, come vogliamo chiamarla, per la ripartenza è di 2 mesi dopo, del 24 aprile. Le linee guida di questa task force, con l'approvazione delle regioni, giusto per fare un po' di cronologia, arrivano a 2 mesi dalla costituzione della task force. L'impressione è che si sia perso un po' troppo tempo. Allora, provo a mettere un po' di ordine rispetto a quello che lei adesso ha detto. Quando abbiamo chiuso le scuole, noi la task force in realtà l'abbiamo creata, erano i primi di marzo, la task force, non il comitato dei tecnici, che è un'altra cosa. La task force è quella che normalmente si attiva quando c'è un'emergenza, il Ministero dell'Istruzione ce l'ha, e quella ci è servita per attivare la DAD, per distribuire i tablet a tutti quanti, per fare in modo che la scuola continuasse a svolgere e a fare il suo lavoro, anche se eravamo tutti chiusi a casa con il lockdown. A fine aprile invece è nato il comitato tecnico del Ministero dell'Istruzione, composto da 18 esperti, e da lì si è iniziato a lavorare. Ora, Queste linee guida sono state condivise con tutti gli interlocutori, con le famiglie, con gli studenti, con le paritarie, con le associazioni dei disabili, con gli enti locali, con le forze sociali. Prendere delle decisioni a giugno, adesso, o poteva essere a maggio o ad aprile, come vuole lei, ma sulla base di un quadro epidemiologico in costante progresso, in itinere, per settembre, non è assolutamente semplice. Era evidente che noi dovevamo pensare a opzioni diverse sulla base del quadro epidemiologico che ci sarebbe stato. I documenti che ci scrive il CTS del Ministero della Salute sono in costante aggiornamento. Noi ne abbiamo avuto uno il 28 maggio, poi ne abbiamo avuto un altro qualche giorno fa e chissà, ne arriveranno ancora degli altri. Quindi noi dobbiamo aggiornarci di volta in volta. E poi vi dico un'ultima cosa, abbiamo scritto queste linee guida adesso, ma io voglio far notare che negli altri paesi europei, noi ci incontriamo molto spesso con i ministri dell'istruzione europei, le linee guida in alcuni paesi non sono ancora arrivate per settembre e in altri sono arrivate esattamente adesso, in questi giorni. Stiamo procedendo tutti nello stesso identico modo. Quindi non si rimprovera niente su questo fronte, solo questa domanda, Maria, permettimi, non si rimprovera niente sulla tempistica? Io penso che si possa sempre fare di più e ci mancherebbe altro, ma la tempistica nasce dal fatto che noi non decidiamo da soli, noi decidiamo insieme a tutta una serie di stakeholder, ma in primis decidiamo insieme al Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute. Perché la riapertura delle scuole, se tenere o non tenere il metro di distanza, non dipende dal Ministero dell'Istruzione, ovviamente dipende da un quadro epidemiologico che sta cambiando, come vedete, e che cambia in continuazione. Il punto è stato proprio quel metro di distanza, perché se il metro di distanza fosse saltato, come è saltato in alcuni paesi europei, il problema non si sarebbe posto nemmeno. Quindi noi le decisioni che prendiamo le dobbiamo prendere 2 mesi prima per 2 mesi dopo, così come è stato anche per gli esami di Stato, per cui tutti ci senta dicevano, ministro, allora fare. appare chiaro che quello che è, come dire, nella vulgata generale, no, viene attribuito al Ministero dell'Istruzione, al Ministro dell'Istruzione, perché non ha riaperto le scuole, chi decide che i bambini devono mettersi la mascherina, non è legato a sue autonome decisioni, ma a quello che dice appunto il Comitato Scientifico, il Ministro della Salute. Tra l'altro il Ministro della Salute, Speranza, ha ricordato che è attualmente in vigore un DPCM, un decreto del Consiglio dei Ministri, del Presidente del Consiglio dei Ministri, che prevede l'uso delle mascherine nei luoghi al chiuso, aperti al pubblico, quindi anche nelle scuole. Però io vorrei che lei facesse un po' di chiarezza, perché noi in questi mesi abbiamo letto sui quotidiani, e quindi poi quello che si scrive sui quotidiani viene poi ripreso da altri organi di informazione, abbiamo letto un sacco di cose che poi non si sono verificate. Penso soprattutto al plexiglass nelle aule. Qui lei ha la possibilità di dirci com'è nata questa cosa del plexiglass, chi se l'è inventata, chi l'ha passata poi ai giornali e se ci sarà o non ci sarà, perché persino Salvini è preoccupato che la sua bambina vada nelle aule col plexiglass. È una bufala o c'è del vero? Allora, è una bufala ed è una bufala, è sempre stata una bufala dal primo momento. Come è uscita questa cosa? Allora, noi avevamo fatto una riunione privata in cui avevo comunicato agli interlocutori che il Comitato Tecnico Scientifico stava valutando diverse misure per la riapertura a settembre, tra cui anche i divisori. Tra le altre mille ipotesi, no? Per cui si parlava di settembre. Un'ora dopo, anzi forse anche qualche minuto dopo, sui giornali quella possibilità di divisori era diventata bambini a settembre nelle gabbie plexiglass, con tanto di immagine, forse era anche in prima pagina. Da lì lo hanno ripreso tutti i giornali. Tanto che io, dopo 3 giorni, feci un video dicendo: guardate che non abbiamo mai parlato di bambini a settembre nelle gabbie plexiglass. Il risultato è che il giorno dopo sui giornali era Assolina dietro front, marcia indietro su plexiglass. Allora, capisce bene che proprio perché noi parliamo a 30 milioni di italiani, ci vorrebbe maggiore correttezza e un briciolo di attenzione in più. Non parlo dei giornali, dico in generale. tutt'oggi c'è chi continua a dire a settembre i bambini in classe con le gabbie di plexiglass, ma ci sono i documenti ufficiali, le linee guida, tutto quello che abbiamo scritto, che abbiamo anche presentato in conferenza stampa, che non parlano assolutamente di gabbie di plexiglass. Ora, questo non aiuta, genera e alimenta confusione. C'è qualcuno che evidentemente ci vive bene nella confusione e vuole creare confusione. Ma io lo ribadisco anche in questa sede, vi prego, guardate ai documenti ufficiali che scrive il Ministero dell'Istruzione, a quello che pubblichiamo sui social del Ministero dell'Istruzione o sui miei. Perché io di leggere notizie false che fanno click, che fanno ascolti e via dicendo, sinceramente ne siamo stanchi, perché poi chi ci perde in realtà sono gli italiani, milioni di famiglie che ricevono informazioni distorte e non aiuta in un momento sì. molto critico in cui ci vorrebbe la responsabilità da parte di tutti quanti. Ministra, lei ha parlato delle valutazioni del comitato tecnico scientifico. Certo, c'è un comitato tecnico scientifico e poi, come spesso abbiamo detto in questi giorni, c'è la politica. Allora la domanda è: perché lei non ha fatto una battaglia per una riapertura anticipata, anche solamente in giugno, magari andando avanti 3 settimane in maniera simbolica, o una riapertura per l'inizio di settembre e non per il 14? Allora, lei ha ragione. Il comitato tecnico scientifico è costituito da un gruppo di scienziati ed è un comitato tecnico, poi c'è la politica. La politica si assume la responsabilità delle decisioni e le prende. Io sono assolutamente convinta del fatto che si sia fatto bene, insieme a tutto il governo, perché anche in questo caso la responsabilità della chiusura delle scuole è una scelta condivisa di tutto il governo. Ne resto convinta perché a maggio noi avevamo ancora 500 morti al giorno e avevamo dei documenti molto pesanti che ci dicevano che se avessimo riaperto avremmo rischiato migliaia di terapie intensive. E anche l'OMS aveva detto chiaramente che chi riapre le scuole troppo presto vedrà risalire i contagi. Anche qui io invito tutti a guardare quello che è accaduto in Italia, ma anche in Europa. La narrazione per cui in Italia è tutto chiuso, tutte le scuole d'Europa riaprono, non è corretta e non è veritiera, perché in Francia hanno deciso sì di riaprire, ma chi è andato a scuola? Sono andati a scuola il 20% degli studenti, su base sì volontaria, l'80% è rimasto a casa. France, e però Macron, mi scusi ministro, Macron ha sottolineato che non ci sono stati contagi, cioè quello che si temeva, che poi i ragazzi contagiassero altro, non c'è stato. Hanno chiuso 2 scuole per quello a Parigi per esempio, ma non c'è stato questo ritorno, questa ondata del contagio. Ci sono state delle scuole che hanno chiuso sia in Francia, sia in Germania, sia in Israele, sia in tanti altri paesi, però il punto è la quantità di studenti che frequentano, cioè il 20% è tornato a scuola, l'80% era a casa, le famiglie non hanno voluto mandare i propri figli a scuola. Chiaro che riaprire al 20% è molto più semplice, anche perché hai molti più spazi, non hai bisogno di troppi insegnanti, perché anche in Francia c'è stata, come dire, una specie di ribellione da parte di insegnanti e sindacati che temevano il ritorno a scuola. E poi c'è anche un altro aspetto che si dovrebbe raccontare se si vuole fare il paragone con gli altri paesi europei. In Francia gli esami di Stato non li hanno fatti. Hanno preso e hanno fatto la media dei voti. Noi abbiamo riportato 500.000 di studenti in classe a fare gli esami di Stato quando tutti ci dicevano non si può fare, non lo dovete fare. E oggi io ricevo lettere su lettere di docenti e studenti emozionati e contenti del fatto di aver fatto l'esame di Stato, mentre prima mi avevano accusata di omicidio colposo. C'era chi aveva fatto delle dichiarazioni specifiche dicendo la Serina vuole riportare tutti a scuola per l'esame di Stato? Vergogna, omicidio colposo. Invece gli esami di Stato sono andati molto molto bene, io sono felice di averli fatti in presenza, perché quello ritorno a scuola a giugno non è stato solo simbolico, perché l'esame di Stato rappresenta un passaggio alla vita adulta, è stato proprio finalmente rivedere aperte tutte le nostre scuole secondarie di secondo grado, e ho la comunità scolastica che ci ringrazia. Senta, ministro, le famiglie sono in attesa di una parola certa sulla riapertura delle scuole. Io parlo con tante mamme che mi dicono: se non riaprono le scuole a settembre, io questa volta non ce la faccio. Non ce la faccio a fare l'insegnante di supporto per i miei figli, soprattutto i bambini elementari, con la didattica a distanza. Possiamo dire con certezza che le scuole riapriranno il 14 settembre e che voi al Ministero state cercando anche soluzioni alternative, perché ci sarà l'Election Day una settimana dopo e quindi si rischia di riaprire le scuole e richiuderle subito? Allora, assolutamente sì, non soltanto le scuole riapriranno il 14 settembre, ma già dal 1 settembre le scuole di fatti riaprono per tutti quegli studenti e studentesse che hanno da recuperare o da potenziare gli apprendimenti dell'anno scolastico appena concluso. Quindi dal 1 settembre le scuole riaprono per una parte di studenti, dal 14 riaprono per tutti quanti. L'Election Day non riguarda le scuole secondarie di secondo grado, gli edifici delle scuole secondarie di secondo grado normalmente non sono interessate dalle elezioni, riguarda gli ordini di scuola precedenti. Anche qui però io voglio far notare una cosa, fermo restando che non è il ministro dell'istruzione che decide dove si devono svolgere le elezioni, anche lì sono competenze di altri, degli enti locali, il ministro dell'interno, eccetera. Ma la sanificazione delle scuole, che sarà ovviamente necessaria, dura un giorno. Io ho sentito chi diceva: ah, poi ci vuole una settimana per sanificare. No, la sanificazione dura un giorno. Io sarò il più felice possibile quando vedrò tutti i miei studenti a scuola e che ci restino anche, perché le famiglie hanno assolutamente ragione. I studenti devono tornare in classe, ma abbiamo più e più volte detto che questo avverrà. E non a caso abbiamo messo anche delle risorse in più affinché ci fosse la certezza che questo avvenisse. E io personalmente, insieme a tutto il Ministero dell'Istruzione, lavoreremo tutta l'estate affinché questo poi di fatti accada. Non devono nutrire dubbi sul fatto che a settembre si ritorna a scuola. Grazie. No, anche perché se no ci chiudere. Sono, ci sono le famiglie altro. In corteo. Esatto, andiamo. C'è la rivolta delle mamme e dei papà. No, questo lei lo sa, vero ministro? Posso dire l'ultima cosa al volo? Sì. Allora, io ho durato il 10 gennaio e sono diventata subito il ministro dell'istruzione dell'emergenza coronavirus. Sono stata solo questo finora. Ma avete idea di che cosa abbia significato per me, che sono un ex docente, dover chiudere le scuole insieme a tutto il governo per salvaguardare la salute di tutti i cittadini italiani, e abbiamo salvato migliaia di domande? È chiaro che io a settembre non voglio altro che la riapertura delle scuole. Io voglio essere il ministro dell'istruzione anche della normalità, non solo del coronavirus. Speriamo di tornarci. Ci sia il rimpasto. Speriamo di tornarci. Sempre che non normalità. Ci sia il rimpasto, cara ministro, perché ogni tanto ci sono voci di rimpasti e di sostituzioni, ma questo lo vedremo in un'altra puntata. Magari. Lo vedremo. Buona giornata, Lucia Azzolina. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo con Giovanni Toti. Ed eccoci di nuovo, stiamo cercando di rintracciare Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, che tra poco dovrebbe raggiungerci. Abbiamo dato, credo, qualche rassicurazione alle famiglie, perché anche ieri, sarà successo anche a te, no? Parlando con amiche che hanno figli alle elementari, alle medie, mi chiedevano: ma secondo te si torna davvero il 14 settembre? Ecco, adesso c'è la voce della ministra a Radio 24, la possono risentire, ci spiega come sarà. E anche un altro aspetto che secondo me è importante è capire che per l'Election Day, questa cosa un po' surreale a mio avviso, no? Che si fanno le elezioni una settimana dopo che le scuole si sono riaperte, comunque dovrebbe essere limitato alle scuole elementari, e comunque la sanificazione, cioè il tempo che poi si perderà per ripristinare la pulizia e la sanità dell'istituto non dovrà durare una settimana come spesso succede, dovrà durare un giorno. Saremo qua a vedere quanto durerà. Sì, come sai, un tema che abbiamo posto più di una volta ai nostri ospiti, anche politici, perché l'idea appunto che si riparta il 14 settembre e poi subito dopo si voti, insomma, lascia perplessi. Giacomo da Monza, buongiorno. Buongiorno, sì. Scusate. Prego. Innanzitutto vorrei ringraziarvi per, soprattutto la signora Latella, per la battaglia che porta avanti sempre sull'istruzione, che è molto importante. E facciamo io parlo... tutti e due. Sì, no, beh, certo. Grazie Maria. Parlo da universitario in realtà, e quindi io in realtà volevo chiedere alla ministra, che adesso vabbè non c'è più, volevo chiedere in realtà un po' di farsi da portavoce, perché soprattutto per quanto riguarda la questione della ricerca, perché la sensazione che si ha sempre è quella che la ricerca sia da una parte e lo Stato, il governo, le sue decisioni siano da tutt'altra parte in realtà, e per cui il punto è si mettono poche risorse nella ricerca, e quelle poche che si usano poi non vengono neanche prese in considerazione. Non so se si capisce. Sì, è chiaro. Giacomo, questo è un vecchio problema italiano. Tra l'altro, noi di università vogliamo tornare a parlare, forse lo faremo addirittura in settimana, posto che ovviamente non è, esatto, posto ovviamente non è competenza della ministra Azzolina, perché come lei sa, Giacomo, ormai i ministeri sono separati adesso, università e ricerca è a parte ed è il titolare del dicastero è Manfredi. Torneremo a parlarne, perché poi c'è anche un tema di ritorno in aula anche nelle università, cioè non è solamente una questione di scuole, ha a che fare anche con l'università, è un luogo non solamente di ricerca, non solamente di studio, ma anche un luogo di socialità l'università, per cui anche quel pezzo probabilmente certo. Va ripristinato evidentemente, no? Lei, certo. Lei ha fatto didattica a distanza? Cioè, posso chiederle se frequenta un'università pubblica o privata? Io sono in statale a Milano, per cui è pubblica. In statale. E avete fatto didattica online? Abbiamo fatto didattica online, sì, inizialmente con qualche problema, vi dirò, come è comprensibile. Poi in realtà la didattica ha proseguito in modo molto efficiente, in realtà. I grossi problemi sono forse sul fatto che ci sono state poche indicazioni comuni, quindi di fatto tutti si sono mossi un po' in direzioni differenti. Non so se... mi spiego, esami sono stati fatti in modo diverso, lezioni su piattaforme diverse, per cui ecco un po' questa difficoltà che è lo stesso problema, Giacomo, che hanno avuto le scuole. Maria D'Ancona, buongiorno. Buongiorno a voi. Prego. Mi sento sempre. Bene, ottimo, ne siamo lieti. Prego. Della giornata. Ascolti, io mi ricordo che quando ero bambina c'erano delle scuole, che ci sono ancora qui ad Ancona, che hanno dei soffitti altissimi. Allora io ho fatto mi è venuta questa idea. Invece di costruire altre aule, si potrebbero fare dei soppalchi intorno a... prima del soffitto, affinché... l'idea della scuola soppalcata come una specie di loft, Maria, chiederemo una specie anche... di teatro con come si chiama la parte superiore, certo, la galleria, con loggione, perché i bambini specialmente della terza media piace molto fare le scalette. vedi non, senta, non lei è, è un apporto, il suo è un apporto creativo, e io penso che di creatività il Ministero dell'Istruzione in generale e il Governo abbiano bisogno, perché talvolta si possono trovare delle soluzioni molto semplici. Non so francamente se la sua sia realizzabile, però so per certo che il patrimonio scolastico, degli edifici scolastici italiani, lascia molto a desiderare, non dappertutto, perché per esempio, dispiace dirlo, al nord sono stati usati spesso i fondi europei e quindi le scuole sono state rimodernate, ma in altre realtà penso... Sì. Alcuni istituti romani sono veramente... Come fa notare Maria, mi permette, visto che poi ci chiama da Ancona, quindi zona su questo fronte importante, ci fa notare un ascoltatore, dice è una bella fantasia la sua, però si urta un po' con la questione sismica. Ecco, su questo fronte ci metterei un accenno di preoccupazione. Abbiamo anche Andrea da Latina, buongiorno Andrea, eccoci. Salve, buongiorno. Prego. Allora, io volevo fare un'osservazione, cioè io sono un insegnante e è chiaro che conosco bene la realtà della scuola e quello che posso dire è che in un qualche modo delle soluzioni per diciamo salvaguardare i ragazzi con il distanziamento, con dei dispositivi, lo possiamo in qualche maniera trovare. Quello che invece vedo che nessuno parla e che secondo me è il vero problema è che questi ragazzi a scuola ci devono arrivare. E per quella che è la mia esperienza, nelle metropolitane, nei pullman che vedo arrivare a scuola, sono stipati come carri bestiame, cioè a volte i ragazzi non riescono neanche a salire nei pullman e devono aspettare il successivo. Andrea, ma vogliamo dircelo, mi scusi Andrea, ma vogliamo dircelo, i ragazzi si stanno vedendo, stanno parlando, non a distanza di sicurezza, stanno chiacchierando, stanno giocando nei parchi da ormai settimane ed è per questo che uno si stupisce e dice ma come mai non riaprono le scuole visto che la situazione che vivono i ragazzi fuori è questa. Non so sulle Maria spiagge, come la vedi. Sulle spiagge io li vedo i ragazzi, lei è di Latina, io pure sono di Sabaudia, quindi ecco, sulla spiaggia i ragazzi giocano. Ho visto l'altra sera una bella festa di compleanno, c'erano una quarantina di ragazzi che stavano appiccicati, non ho visto neanche una mascherina, guardavo da una casa vicina un po' preoccupata, ma insomma il problema è questo, ci dicono gli scienziati che il contagio tra ragazzi è più basso, è vero che però possono contagiare gli adulti, ma questo possono farlo anche ora francamente perché appunto si stanno vedendo come diceva Simone Spezia. Sono comunque, ma siete, ci scrive un'ascoltatrice, un ascoltatore, ma siete mai andati in metropolitana nell'ora di punta? Sì, e so perfettamente com'è, tant'è vero che stanno varando anche delle nuove regole per il trasporto pubblico e anzi sono già in vigore, però bisogna vedere se e quanto si riescono a rispettare, chi le fa rispettare. Per esempio ci sono tutti i posti da tenere liberi, no? Io ho visto sia nelle metropolitane che sugli autobus e la gente le rispetta, questo va detto, cioè non si siedono dove c'è scritto non occupare questo posto. Sarà così anche a settembre quando torneranno a scuola i ragazzi? C'è da augurarselo e c'è da augurarsi che qualcuno li faccia rispettare comunque le regole ai ragazzi se non le rispettassero. Gli adulti le rispettano però. Sì, decisamente. In parte anche i ragazzi. E non stiamo dicendo, un ascoltatore dice quindi se lo fanno i ragazzi è lecito. No, non è un lecito o non lecito. È chiaro che le distanze di sicurezza andrebbero rispettate tutte le norme per contenere il virus, ma il ragionamento di Andrea che ci chiamava da Latina, così come il ragionamento che stavamo facendo, è questo tipo di contenimento così intenso all'interno delle classi, questa estrema attenzione che ha fatto sì che per 4 mesi tenessimo chiuse le scuole senza nemmeno pensare di riaprirle, poi si scontra col fatto che nella realtà di tutti i giorni, nella vita di tutti i giorni, questi ragazzi si vedono, si incontrano, parlano, lo fanno a volte senza protezioni, a volte un po' più correttamente con le protezioni, però è quello che stiamo vedendo in questi giorni nelle nostre città e che vediamo dalle foto che potete trovare su tutti i giornali. Patrizia da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno, senta, io sono un'insegnante di liceo scientifico e volevo dire che la didattica a distanza di cui tanto il ministero si infarcisce la bocca così è stata attuata solo grazie alla buona volontà sia degli insegnanti che degli animatori digitali. Cioè, nella nostra scuola avevamo un animatore digitale molto efficiente, che lavorava giorno e notte e ci ha istruito immediatamente sulle piattaforme da usare, sugli strumenti da usare. Però da parte del Ministero non è arrivato nulla. E noi insegnanti siamo stati lasciati completamente soli, ognuno di noi si è ingegnato come meglio poteva. E, per quanto mi riguarda, io ho utilizzato le lavagnette elettroniche, mi sono comprata la penna capacitiva per poter scrivere, noto che i soldi del bonus sono stati autorizzati per l'acquisto di questi strumenti circa alla fine di marzo, quando noi ormai eravamo già partiti, perché si aspettava. Professoressa, mi scusi, no, sì, scusa, prego, prego. Simone, prego, come no? Certo, figurati. Lei è consapevole della, come dire, grande responsabilità che tutti voi insegnanti avete avuto, di tenere in piedi la parte importante del paese, il futuro. Avrà anche notato che mentre di scuola prima non parlava nessuno, e diciamola tutta, non veniva vista, al di là delle parole, dei convegni, non veniva vista come una vera priorità, per fortuna, ed è una delle poche cose positive di questa drammatica epidemia, adesso tutti si sono accorti di quanto sia fondamentale. Quindi un grazie al suo personale impegno e a quello di tanti suoi colleghi. Dopodiché le chiedo, come vi sentite? Perché in questi mesi, come Maria, perdonami, pubblici, voi avete avuto gli stipendi garantiti. Mancano, no? 20 secondi alla chiusura della trasmissione. Scusate, però tanti genitori di vostri alunni non ce l'hanno avuto. Adesso qualcuno, come dire, questo lo farà notare? Da questo punto di vista, privilegiati, perché il nostro lavoro è stato tutelato. Da un altro punto di vista, quello della responsabilità, ci siamo sentiti molto soli, perché per quanto mi riguarda avrei voluto anche da parte del Ministero un sostegno anche morale, non solo per me ma anche per gli studenti. Cioè io avrei voluto che anche il Ministero dicesse agli studenti che questo era un momento molto grave e che dovevano assumersi anche loro delle responsabilità. Patrizia, non c'è tempo per farla concludere. Noi la ringraziamo così come ringraziamo tutti gli ascoltatori, che avevamo annunciato Giovanni Toti, sarà rimasto bloccato nel traffico anche lui, chissà, anche lui sulle autostrade Liguri. Maria, ci sentiamo domani 8:20. A domani.